unico, il soggetto unico omosessuale, che l'unica cosa che vuole è la normalità e la normalizzazione, i diritti e la famiglia. Allora, noi ci siamo tenute in disparte per un tempo abbastanza lungo. Sì, abbastanza lungo. 7 anni. Quest'anno abbiamo deciso nuovamente di aderire. Uno, perché l'invito e il dibattito intorno a questo Pride è stato più ricco, cioè ha messo un po' più da parte la questione dei diritti, e perché ci sembrava importante portare, in un momento storico come questo, di attacco patriarcale, clericale e fascista a tutta la ricchezza del mondo e alla possibilità di essere nel mondo come noi siamo, autodeterminandoci. Ecco, questo attacco per riportare tutti e tutte all'omologazione, all'uno, all'unico, eccetera, beh, noi lo vogliamo combattere. E quindi alle parole d'ordine di questo Pride noi ne aggiungiamo altre 3. Che sono autodeterminazione, perché è fondamentale, e aderiamo a questa parola d'ordine, e antifascismo, perché altrettanto fondamentale. Altrettanto fondamentale, stiamo assistendo a una fascistizzazione di tutti gli ambienti e una rinascita dei fascisti assoluta. E poi desiderio, perché crediamo che il partire da noi, il partire dalla possibilità e dalla volontà di autodeterminarsi sia rappresentare e scrivere e ascrivere il desiderio come momento essenziale. Detto questo, ci sembra quindi importante ricordarvi che sabato c'è il Pride, e poi vi diremo delle scadenze che ci saranno di qui a questo benedetto sabato. Ma noi sabato avremo anche il carro separatista delle donne femministe, lesbo-femministe, separatiste, ma anche non separatiste, che per quel giorno vogliano sfilare in uno spezzone separato. Una sottolineatura ulteriore. Esatto, e noi abbiamo intenzione appunto di stare là. Ecco, allora, detto questo, pensiamo anche che sia fondamentale la ricerca e la costruzione di nuove alleanze con gruppi, movimenti e singole che abbiano voglia di misurarsi con la ricchezza mai sparita della diversità contro l'omologazione. Vi ricordiamo quindi che siamo su Radio Onda Rossa, sugli 87-900 di Radio Onda Rossa, all'interno del martedì femminista e lesbica autogestito. Vi ricordiamo che se volete partecipare alla nostra trasmissione lo potete fare attraverso l'invio di un SMS al numero di cellulare 338-4146-682. Che se volete potete contattarci attraverso la mail, che è contatti@clrbp.it, oppure scriverci a CLR presso Centro Femminista Separatista in via San Francesco di Sales 1B 00 165 Roma, o venire il giovedì, quando noi normalmente ci riuniamo. Questa settimana, se avete voglia di contribuire, noi ci riuniremo mercoledì, proprio per i tempi stretti del Pride. E adesso aspetta, me volevo semplicemente ricordare un'altra cosa importante, che è il sito della radio, che è www.ondarossa.info, il telefono della radio, che è 06 49 17 50, se volete farci un trillino, ma anche una telefonata per dire la vostra, a noi fa piacere. E quindi no, stavi dicendo adesso? E che per chi volesse può ascoltare in diretta anche tramite il sito della radio. Certo. E intanto adesso dico che possiamo ascoltarci un brano, che è un brano... che amiamo molto, lo possiamo dire. Beh, un brano molto vecchio, un brano anche un po' antico, che riguarda la figura di una sindacalista storica, una donna che si chiamava Maria Goya, e che è soprattutto anticlericale. Beh, un po' di canti anticlericali è bene che li ricominciamo a spolverare. Ok. Vogliamo l'uguaglianza, vogliamo che sia giusta. Ai preti signoroni, noi gli daremo la frusta. E viva la Maria Goya, con il suo bel parlare. Se l'Italia la si unisce, la faremo ben tremare.

con i nostri corpi noi diciamo no. Coordinamento Lesbiche Romane, sito web www.clrbp.it e mail contatti@clrbp.it. Adesso ascoltiamo un brano di Daido che si chiama No Angel. Not with me. I hope she's sweet and so pretty. I hear she curses delightfully. A little angel beside you. So you're with her, not with me. How lucky one man can be. I hear your house is smiling clean. Oh, how lovely with your homecoming queen. Oh, how lovely it must be when you see her sweet smile. Does it bother you now all the angry games we play? Does it bother you now when I'm not there? When you see noi volevamo comunque dire ancora due parole sul Pride, perché ci sembrava importante farlo. Allora, noi vi abbiamo accennato nell'introduzione che aderiremo a questo, cioè abbiamo a parte letto il comunicato, ma aderiamo a questo Pride anche con una mossa di visibilità estrema. Noi saremo su un camion e in prossimità di questo camion ci saranno tutte le altre, però riteniamo che al di là di quella che può essere la nostra personale visibilità sia importante dare un segnale di una risposta significativa, quindi è importante che ci siano tante altre donne, tante altre lesbiche e che si renda visibilissimo il nostro opporci a queste a questo andazzo che ha preso ormai la società italiana, perché il fascismo sta andando avanti, ci sono delle riproposizioni di cose veramente che non dovrebbero neanche essere nominate, no Lucilla? Cioè sono delle cose veramente che questa cosiddetta sinistra non prende neanche posizione rispetto alla laicità. Insomma, sembrava molto più laico il governo che ci stava in passato rispetto a questo. Cioè, se pensiamo soltanto che storicamente, per come è stata scritta la nostra Costituzione, oggi come oggi, quello che dicono per esempio rispetto a tutti i partiti in Italia, anche quelli della sinistra evidentemente, quello che dicono sulla Costituzione europea è aberrante. Vogliono, così come vuole il Papa e vuole il Vaticano, riaffermare le radici cristiane dell'Europa. Ma che vuol dire? Non ha nessun significato. Ecco, allora, c'erano delle spinte dopo la Seconda Guerra Mondiale e quando venne scritta la Costituzione italiana, delle spinte che volevano, della Chiesa ovviamente, che avrebbero voluto che all'interno della Costituzione, nell'articolo 1, si affermasse la radice cattolica dell'Italia. In quel caso, cioè De Gasperi stesso, che era un democristiano, non la fece sua e non la sostenne. Era un momento storico tale per cui, cioè, veramente lo Stato era laico ed era libero Stato e libera Chiesa, se proprio vogliamo dirla così. Ma questo è un elemento. Quello che noi pensiamo che sia fondamentale oggi è che le donne, che sono veramente il campo che si stanno dividendo tutti sul corpo delle donne, stanno facendo di tutto, stanno rimettendo in discussione, a parte la procreazione con la legge sulla procreazione, certo, assistita eccetera, stanno mettendo in discussione non solamente la possibilità delle donne di autodeterminarsi. C'erano ben altre parole d'ordine durante gli anni 70, durante il femminismo di piazza, no? L'utero è mio e me lo gestisco io. Ecco, bene, questa era una parola d'ordine molto importante. Ma detto questo, su questo piano stanno passando sui corpi delle donne una serie di rivisitazioni, l'aborto, la colpevolizzazione, la procreazione assistita che lo diceva a fare, certo, il ruolo della donna sempre più all'interno della famiglia, la precarizzazione del lavoro e via discorrendo. Quindi cioè, le donne devono riprendere in mano il destino delle loro vite, perché altrimenti qualcuno l'ha già determinato. Lo farà per loro. L'ha già fatto, lo continua a fare e ha già determinato il destino delle donne. Bene, siamo noi che dobbiamo scendere in campo, per usare una parola che non c'è cara, però quest'è, e dire quello che è giusto, quello che vogliamo, quello che desideriamo. Ma infatti l'ultima frase del comunicato nostro che hai appena letto, secondo me, riassume un po' tutto il significato della nostra anche partecipazione a questo Pride, no? Se vogliono controllare il nostro corpo, è con il nostro corpo che diremo di no. Cioè, proprio chiaro. Chiara. E poi è un elemento, cioè alcuni gruppi separatisti che aderiscono, tra cui noi, e alcune persone, alcune donne che aderiscono, viva la dea, pensano ancora che la famiglia non sia il luogo naturale. Ancora dico, lo pensano e speriamo che lo continueremo a pensare per molto tempo ancora. Bene, è importante che questo elemento, che è un elemento dirompente rispetto alla dualità e quindi all'unica verità che qualcun altro ci vuol far passare, cioè che esiste la coppia uomo-donna, che l'una è complementare all'altro e non c'è una complementarietà binaria, è la donna è complementare all'uomo e che c'è solo quella possibilità. Beh, noi donne diciamo che non è così, noi donne lesbiche diciamo che non è così, che ci sono miliardi di altri modi di amare, miliardi di altri modi di stare insieme e che comunque l'amore, l'affettività non può essere, sull'amore e sull'affettività non si può far leggi, non si può legiferare, che non è la famiglia il luogo della libertà, ma che anzi, la famiglia sappiamo che è il luogo dell'oppressione e non la vogliamo ripetere. Anche nel movimento omosessuale le lesbiche dicono altro ed è bene però che questa cosa venga fuori con forza, altrimenti ricompare quel soggetto unico di cui abbiamo parlato nell'introduzione, che è il soggetto unico omosessuale che vuole essere normato e normalizzato. Sono normali, sono come gli altri, è solo non una questione, niente, granché. Esatto, è solo una questione di gusti sessuali, con chi va a letto, non è così. Rompiamo i ruoli, li rompiamo e rompiamo proprio quella cellula patriarcale che è la famiglia, che è quella sulla quale l'imperialismo e il capitalismo si reggono, sullo sfruttamento di un sesso sull'altro. E con questo, non so, possiamo passare anche ad altro. No, senti, mettiamo una bella canzoncina dal Vai. Titolo significativo, tipo Non sono una signora? Ma perfetto, eh? Noi non siamo delle signore, siamo delle lesbiche, okay. Wow! Beh, chiaramente sto parlando di Loredana Bertè. Fretta del cuore è già una novità che dietro un giornale sta cambiando opinioni e il male del giorno è pochi chilometri a sud del mio ritorno, del mio buongiorno. Ma in volo a planare dentro il peggiore motel di questa carrettera, di questa vita balera. Voglia d'argento data da un albero abbattuto qua e che vorrebbe inseguire il vento ma che non ce la fa. Oh, ma che brutta fatica cadere qualche metro in là dalla mia sventura, dalla mia paura. Allora, vi ricordiamo che siete all'ascolto di È una calamità, di cui ci rendiamo perfettamente conto, trasmissione a cura del coordinamento lesbica e lomane all'interno dello spazio autogestita, femminista e lesbico di Radio Onda Rossa sugli 87-900 MHz. Rammentiamo che c'è la possibilità di ascoltarci in diretta attraverso il sito della radio, che è www.ondarossa.info, oppure tramite il sito ufficiale del CLR, che è www.clrbp.it. In entrambi i casi basta cliccare sull'icona in diretta per essere subito con noi. Salutiamo tutte le donne che ci accompagnano ascoltando Radio Onda Rossa e la nostra trasmissione, rendendo possibile così la prosecuzione della nostra avventura dietro questi liberi microfoni. Se ci state ascoltando via internet, ci farebbe piacere sapere da dove. Potete però anche soltanto dare un piccolissimo riscontro della vostra presenza facendo il graditissimo trillino. Basta far squillare il telefono di Radio Onda Rossa componendo lo 06 49 17 50, lasciar squillare una sola volta e poi riagganciare. Noi capiremo che ci siete, perché ogni volta che si chiama la radio, qui nella sala regia si accende una luce verde. Credeteci, è piacevolissimo sapere che ci siete. L'altro mezzo che avete è quello degli SMS, per cui ripetiamo il cellulare. Stasera ancora non è arrivato nessuno, spero che l'argomento vi dia spunto per una riflessione che poi vorrete comunicare con noi. Vi ricordo il nostro cellulare, che è 338-4146-682, e ancora, se le cose che avete da dirci sono molte, potete inviarci un'email all'indirizzo di posta elettronica contatti@clrbp.it, oppure inviarci un fax allo 06 6864 201, oppure, per le amanti della carta, potete scriverci una lettera indirizzandola a CLR presso Casa Internazionale delle Donne, via San Francesco di Sales 1B 00165 Roma. Ripetiamo ancora il telefono della radio, che è 06 49 17 50. Ringrazio tutto coloro che fino adesso mi hanno fatto il trillino, è stato molto carino vedere quella luce accendersi, ed il nostro cellulare, che è 338-4146-682. Io volevo un attimino continuare il discorso dell'autodeterminazione, proprio raccontandovi la storia di Artemisia. Artemisia Gentileschi, voi non so se la conoscete, è stata una grandissima pittrice del Seicento, e voglio parlare proprio di lei perché è una delle prime donne di cui si conosce chiaramente la storia che si è autodeterminata, insomma, vediamo in che modo. Anche perché qualche tempo fa in televisione è andato in onda un film che si intitolava Artemisia, della regista francese Agnès Merlet. Dunque, devo riconoscere che le sensazioni sgradevoli che provai quando andai a vedere il film al cinema, mi sembra che il film risalga al 98, si sono riproposte identiche, se non addirittura accentuate, quando l'ho rivisto tempo fa in televisione. Questo è un film che prima di uscire fu preceduto da una campagna pubblicitaria molto forte, e addirittura si disse che aveva incontrato delle difficoltà ad entrare nella programmazione perché si erano presentate delle forti resistenze anche da parte della censura. Ricordo che si montò una vera e propria campagna pubblicitaria studiata nei minimi particolari e nei minimi dettagli, e che ebbe poi alla fine il suo tornaconto in termini di presenza della pellicola nelle sale. Ricordo che andai a vederlo perché io personalmente sono un'appassionata di Artemisia, e alla luce di questa mia passione, ma anche grazie alle letture che avevo già fatto su di lei, ed oggi ancora di più grazie ad un corso sull'arte che abbiamo fatto al Centro Femminista Separatista tenuto da Pina Nuzzo, mi sento di avanzare qualche critica ancora di più a quella pellicola. Cercherò adesso, se mi riesce e se riesco a rimanere lucida, di spiegare anche il perché. Allora, personalmente, ripeto, quando andai a vedere al cinema appena il film uscì, conoscevo già abbastanza Artemisia Gentileschi. Nel 1991 ero andata fino a Firenze per vedere una mostra a lei dedicata, allestita all'interno di Casa Buonarroti. Inutile dire che ho trovato splendide le sue tele, ed ognuna di esse mi ha dato delle emozioni molto forti. Emozioni molto forti che non ho sicuramente avvertito andando a vedere il film. Inoltre la vita di Artemisia Gentileschi è stata tale da farla apparire, almeno ai miei occhi, una donna in gamba e per certi versi all'avanguardia. Ricordo che stiamo parlando del 1600. Pensate che, per esempio, è stata la prima donna per la quale è stato svolto un processo per stupro. È stata una delle pochissime donne che sono riuscite a far valere le proprie capacità, anche se l'ingresso all'Accademia delle Arti le era stato negato in quanto donna. È stata capace di rendere leggibili e quindi di trasmettere, a dispetto dei tempi, degli stati d'animo che, scusate, soltanto una donna poteva trasmettere. Sto pensando in modo particolare allo stupendo quadro Susanna e i Vecchioni, che risale al 1610, dove si vede una giovanissima Susanna che viene insidiata appunto da due vecchioni. Come dicevo prima, grazie al corso sull'arte tenuto da Pina Nuzzo, ho potuto anche capire meglio perché questo quadro mi è piaciuto così tanto e perché mi ha trasmesso sensazioni tanto condivisibili quanto conosciute. Perché l'atteggiamento di Susanna era stato raffigurato in modo assolutamente differente da quello rappresentato in altre tele col medesimo soggetto. Susanna non si stava offrendo, non ha uno sguardo accattivante. La Susanna del quadro di Artemisia ha un atteggiamento misto tra imbarazzo e ripulsa. In questo quadro Susanna è completamente nuda e al di là del muro ci sono questi due uomini. Non soltanto sono vestiti, ma hanno anche il mantello addosso e confabulano spiandola. Ora, secondo me Artemisia Gentileschi avrebbe potuto anche vestire di sana pianta Susanna, si sarebbe capito lo stesso il suo stato d'animo, perché in certe circostanze una donna si sente comunque nuda. Inoltre questo quadro nel tempo, nonostante fosse stato datato e firmato da Artemisia, è stato attribuito ad una svariata serie di pittori. Per cominciare, dissero che l'aveva realizzato il padre Orazio. In seguito lo classificarono come opera del Tiziano e poi del Domenichino. Insomma, nessuno voleva ammettere che una donna, e per di più di soli 17 anni, fosse stata in grado di dipingere un capolavoro simile. Ma torniamo al film della Merlet. La trama parla di questa adolescente Artemisia, molto determinata nel voler continuare a dipingere, tanto che il padre Orazio la ritira dal collegio dove l'aveva portata e la fa diventare una dei suoi collaboratori. Nonostante la richiesta avanzata per l'Accademia dal padre Orazio, che all'epoca era già un pittore affermato e da tutti conosciuto, Artemisia non riesce ad entrare. Sempre nel film si fa vedere come Artemisia apprenda attraverso studi autodidattici, da autodidatta, che però non la fanno crescere sufficientemente, fino a quando, ed ecco qui la prima stoccata che mi fece sobbalzare dalla poltrona del cinema, non ci fu l'incontro con Agostino Tassi, amico rivale del padre di Artemisia, Orazio. Ora, è vero che quel periodo di vita di Artemisia è ancora molto confuso e pieno di contraddizioni. È vero che, come nel film si evidenzia, Artemisia fu costretta a subire sia la tortura sia una visita ginecologica pubblica durante il processo per stupro voluto dal padre. Ma nel film della Merlet, alla fine, chi salva Artemisia è proprio colui che l'ha violentata. La Merlet, per tutto il film, fa vedere Agostino Tassi come l'artista seriamente innamorato che si sacrifica ammettendo la responsabilità dello stupro. E tutto questo, sempre nel film, permette ad Artemisia di essere finalmente lasciata in pace uscendo dal processo. E come se non bastasse, verso la fine della pellicola si vede un'Artemisia sicuramente provata, ma che si consola ripensando ai momenti di piacere passati con Agostino Tassi, ricordo quello che l'ha violentata. Inoltre il film finisce con quella che secondo me doveva essere invece una delle scene iniziali, Artemisia che parte e se ne va via. A mio avviso la Merlet ha dimenticato di dire delle cose secondo me fondamentali, tipo: Il padre Orazio le trovò in fretta e in furia un marito compiacente, vecchio e pressoché sconosciuto per mettere a tacere ogni cosa. Poi Agostino Tassi non ebbe alla luce dei fatti una detenzione molto lunga, visto che alcuni documenti dell'epoca testimoniano che nel febbraio del 1612 era ancora libero e che il 25 dicembre dello stesso anno era già uscito dal carcere. Inoltre, fino alla fine del processo, affermò di non aver avuto mai rapporti sessuali con Artemisia. Beh, e allora la sua autoaccusa fatta e proclamata nel film che fine fa? E poi, senza considerare che abbandonare Roma dopo lo scandalo del processo è stato un danno notevole per Artemisia, la quale cominciava proprio ad allora ad avere un discreto successo personale. E infine non è da tralasciare neanche il fatto che il padre Orazio ha aspettato un intero anno prima di denunciare Agostino Tassi per stupro. Ora, questo ritardo acquista valore particolare se si pensa che già anni addietro, e precisamente nel 1603, Orazio fu coinvolto in un processo che aveva tutti i connotati di un regolamento di conti. Cosa era successo? Il pittore e biografo Baglione lo trascinò in tribunale insieme a Caravaggio usando un futile motivo, semplicemente perché cominciava ad avvertire i due come insidiosi avversari, stavano diventando cioè troppo bravi. All'epoca del processo per stupro, nel 1612, il padre Orazio era impegnato con gli affreschi del Casino delle Muse, a fianco proprio di Agostino Tassi, il quale sicuramente godeva di molte più protezioni di Orazio. Prima Lucilla diceva che si vuole gestire il corpo delle donne e nulla mi fa... questo mi fa pensare che anche Artemisia forse è stata usata. Quella che sto per dire infatti è una teoria del tutto personale, però mi viene da pensare che il tempismo nel denunciare lo stupro, ricordo un anno dopo dall'evento, e fatto dal padre per di più, coincide stranamente con il maggior prestigio raggiunto da Agostino Tassi nei confronti di Orazio Gentileschi. E allora che Artemisia sia stata usata per togliere di mezzo Tassi da parte del padre Orazio? Chissà. Forse è vero, è solo un'illazione, ma poiché non ci sono prove certe di quanto è accaduto, sicuramente anche la versione della Merlet è un'illazione, e allora, illazione per illazione, preferisco la mia. Insomma, è per tutti questi motivi che dico che il film doveva parlare dello stupro, perché è innegabile che tale avvenimento segnò la vita di Artemisia, ma doveva essere raccontato come uno stupro e non come una storia d'amore. Inoltre, se si doveva parlare di Artemisia Gentileschi, non si doveva esaurire il discorso mettendo una postilla scritta alla fine della pellicola dove si ricordava a chi stava guardando il film che quella ragazzina stuprata è diventata poi una delle più grandi pittrici del Seicento. In ultima analisi, la cosa che mi ha dato più fastidio di tutto il film è proprio la figura di Agostino Tassi, che risulta essere colui che l'ha violentata, che però in fondo l'amava tanto, tanto da salvarla, e poi ha dato piacere ad Artemisia e, come se non bastasse, le ha pure insegnato a dipingere. Beh, mi sembrava e continua a sembrarmi veramente troppo. Comunque, se avete voglia di approfondire un po' la conoscenza di Artemisia Gentileschi, vi consiglio di leggere un libro sulla vita, scritto in forma romanzata e che personalmente amo moltissimo. Si tratta di La passione di Artemisia ed è stato scritto da Susan Vreeland, una donna, appunto. It's been 7 hours and 50 days since you took your love away. I go out every night and sleep all day since you took your love away. Since you've been gone, I can do whatever I want. I can see whomever I choose. Beh, adesso è arrivato un messaggio di Giù, ve lo devo leggere perché è simpaticissimo. Ciao bellezza, stasera si parla di arte, il mio campo, vuole un nudo, ciao, il film fa cacare, sono contenta che qualcun altro ha le mie stesse sensazioni rispetto a quello schifo che è stato proiettato tempo fa. E grazie anche per i primi. Appuntamenti. Un attimo solo, prima degli appuntamenti, ha telefonato un ascoltatore, Gerant, che sta a Farfa e ha detto che nell'abbazia, nella chiesa di Farfa, o l'abbazia, non ho capito bene, ci sono quattro dipinti di Orazio Tasso. Di cui uno di questi Agostino Tasso, no, perché Orazio Gentileschi è il padre. Orazio Gentileschi, scusate, ma è l'emozione momentanea. E di cui varie raffigurazioni, ma una è Giuditta che esce da dietro la tenda di Oloferne con la testa di Oloferne in mano, e quello chiaramente sembrerebbe essere un dipinto di Artemisia, anche se è stato attribuito al padre. Lui diceva forse potrebbe essere una pubblicità che il padre si è fatto o voleva fare durante il processo. Chissà. Ah, sì, ma comunque anche c'è un dipinto bellissimo di Giuditta e Oloferne, proprio di Artemisia, che veramente si vede tutta la potenza comunque e la violenza che Giuditta stava mettendo nel decapitare Oloferne, quindi è bellissimo anche quello che comunque è stato attribuito proprio a lei, insomma, ecco, quindi questo. Che vogliamo fare? Mi sono persa un attimo. Noi abbiamo qualche appuntamento. Allora sì, no, io vi devo dare uno brevissimo dunque, allora, l'azienda agrituristica L'Albero Custode, il 15 giugno 2007 alle ore 21 organizza una cena africana in onore dell'artista Tuareg Ibrahim, che per l'occasione esporrà le creazioni di gioielli in argento ispirati alla tradizione del suo popolo. L'intero ricavato verrà devoluto alla sua tribù e noi diamo notizia semplicemente perché sappiamo che comunque all'interno delle tribù le più penalizzate sono le donne, quindi se arrivano soldi speriamo che la loro condizione possa migliorare un pochino. Il costo della cena è di 15 euro, la prenotazione è obbligatoria, e per ulteriori informazioni e per prenotare potete contattare L'Albero Custode al numero di telefono 0774 634049. L'azienda agrituristica si trova sulla via Palombarese al chilometro 32.250 e si entra a destra. Per cortesia prenotate entro mercoledì sera. Dopo il Pride, se volendo, le persone possono andare a cena africana, non sarebbe male. L'altro appuntamento, ve lo leggo un attimo Lucilla perché io devo cambiare disco. Allora, l'altro appuntamento è per venerdì e l'invito a questo convegno che si intitola Nessun Dogma, parole di laicità. È un convegno organizzato da Facciamo Breccia in occasione del Pride GLBT 2007. Dalle 14.30 alle 20 si terrà presso la Casa delle Culture in via San Crisogono 45 Roma. E l'invito politico è questo: già dal suo costituirsi nell'autunno 2005 il coordinamento Facciamo Breccia ha messo a fuoco una duplice urgente necessità: costruire una mobilitazione permanente su laicità e autodeterminazione, sostenendo e alimentando al contempo le pratiche di piazza con un percorso di continuo approfondimento culturale. In occasione del primo incontro nazionale su laicità e autodeterminazione che si tenne a Bologna nel novembre del 2005, avevamo cominciato a tematizzare i concetti, le pratiche di vita non conformi, creando un vocabolario aperto come strumento di resistenza e di lotta. Da quel primo appuntamento nazionale l'esperienza della Breccia si è coniugata ad altre lotte, ha acquisito nuovi strumenti e il desiderio di alimentare questo percorso di conoscenza e di rivendicazione delle nostre parole si è mantenuto vivo. D'altra parte, i continui attacchi oscurantisti che si susseguono da mesi hanno reso urgente la messa a fuoco di alcune parole chiave con cui declinare la categoria di laicità nella vita quotidiana, nelle esperienze, nei saperi e nelle lotte. Obiettivo è quello di riappropriarci di un lessico che, a causa delle continue torsioni ideologiche che subisce, rischia di perdere consistenza e forza. Questo incontro non pretende di esaurire la complessità di questa tematica, quanto piuttosto mira a dotarci di strumenti linguistici necessari al percorso di liberazione da ogni forma di monocultura confessionalista. Il programma lo posso leggere io, sennò ti citi? Sì. Allora, il programma prevede alcuni argomenti che verranno sulle parole chiave, grande, mi vengono i termini questa sera. Allora, ci sarà il saluto dei e delle portavoci del Pride 2007 e poi autodeterminazione, Lucilla Ciambotti, coordinamento lesbiche romane, poi Chiesa, Lidia Cirillo, sinistra critica, diritti e discriminazioni, Michele Grigolo, Istituto Universitario Europeo, famiglie, Daniela Danna, sociologa, informazione, Angela Azzaro, giornalista di Liberazione, integralismi, collettivo antagonismo gay, poi istruzione, Piero Castello, Cobas Scuola, omofobia, Paolo Pedote, scrittore, vita, Elena Del Grosso, che è una genetista, Università di Bologna, Rete delle Donne di Bologna, welfare, Gabriella Bertozzo, che è di Azione Gay e Lesbiche e Facciamo Breccia. Coordina il tutto la Nicoletta Poidimani ed è previsto un intervento della UAR, Unione Atei e Agnostici Razionalistici. Per maggiori informazioni potete andare sul sito www.facciamobreccia.org, però noi vogliamo dare qualche informazione un pochettino più approfondita anche su questi UARC, cioè l'Unione Atei e Agnostici Razionalistici, che sono veramente eccezionali. Se Lucilla ha trovato questo articolo che adesso ci legge. Allora, un articolo che è uscito sul venerdì di Repubblica della scorsa settimana e quindi ci interessava leggervi un qualche stralcio da questo articolo a proposito di un'iniziativa che lo UAR sostiene. Ed è un'associazione di atei, come si definiscono loro, agnostici, razionalisti, cioè estremamente razionali, va bene? Allora, qual è la loro iniziativa? L'iniziativa è quella dello sbattezzo. Allora, siccome in Italia continua ad essere anche se non viene detto espressamente, ma la religione cattolica come una religione di Stato, e cattolici e politicanti dell'ultima e della prima ora continuano a dire che ci sono in Italia 50.000 cattolici, noi sappiamo bene che, che ce ne sono tanti di praticanti e possiamo anche dire troppi, però da qui a dire che sono 50.000, cioè pari a quanti italiani ci sono, c'è una bella differenza. Allora, siccome molte persone per il cattolicesimo il battesimo non è una scelta, ma vengono battezzati i bambini per tradizione appena nati o dopo qualche mese. Dopo molto tempo. Esatto. Allora, però poi questi soggetti che crescono non necessariamente sono praticanti e si riconoscono nell'ambito della Chiesa cattolica. Spesso e volentieri sono atei oppure scelgono altro, non se ne occupano. E invece si viene contrabbandati per essere appunto dei cattolici e la Chiesa continua a dare numeri inesistenti. No, ma soprattutto a propagandarsi, esatto. A nome e per conto di 50.000 cattolici. Allora, detto questo, loro propongono un'operazione, quello dello sbattezzo. Cioè, se sono stato battezzato, io non mi riconosco in questa cosa perché non avevo la facoltà di intendere di volere, quindi chiedo lo sbattezzo. La S privativa in italiano è proprio logica come percorso, va bene? E come fare per sbattezzarsi? Molto semplice, basta andare sul loro sito che è www.uaar.it e scaricare i moduli che loro hanno organizzato, preparato. Senti, ci stava un pezzo di questo articolo perché il tempo stringe, Luci. Sì. Mi interessava leggere quelle percentuali numeriche che mi avevi letto prima. Ti ricordi quando, dopo che molte persone hanno adottato questa pratica? Insomma, allora, no? Loro dicono questo. Quest'anno c'è stato un boom di richieste, dice Giorgio Vilella, segretario dell'UAR, l'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti, che offre consulenza gratuita agli sbattezzanti, atei o no. I visitatori del nostro sito www.uaar.it che hanno scaricato il modulo da inviare al parroco sono passati dai 3.478 dell'aprile 2006 agli 11.752 di un mese fa. E nello stesso periodo le pagine visitate sono aumentate 4 volte, senza contare che molti avviano la pratica per conto proprio. Ovviamente non tutti i contatti con UAR si trasformano in pratica di sbattezzo. Ciò non toglie che l'interesse crescente per questo fenomeno sia un buon termometro della febbre laicista in corso nel paese. Dunque, in poche parole, una volta che si è nell'elenco, si rimane nell'elenco, però accanto al nome messo in elenco loro devono scrivere che non si è più aderenti al cattolicesimo, e questo significa togliere i numeri con i quali loro si fanno forti. Allora, se da una parte ci deve essere una lotta in piazza e visibile che ci faccia dire no all'ingerenza del Vaticano patriarcale nei confronti soprattutto delle donne, ma comunque di tutti anche gli individui che si vogliono autodeterminare, tanto più è importante questa azione, per cui questa gli dà ancora più fastidio. Ma gli dà fastidio forte. Una spina nel fianco, questo qua. Esatto. E dicono che il percorso è lungo e periglioso, perché i preti si oppongono. Ma noi siamo tenaci, lo possiamo dire che siamo tenaci, siamo persone proprio, come esatto, dire, testarde. Allora, andatevi a vedere il sito. Ripeti un attimo il sito, così almeno... Che è www.uaar.it e provateci, noi ci proveremo. E ci sembra una cosa interessante. Poi può darsi che faremo una festa dello sbattezzo al femminile, chissà, magari con la ripresa. Senti, allora io adesso manderei una canzone, visto che abbiamo parlato di una cena africana, che si intitola Amabongo del Sudafrica ed è di Mautela Queens. E diciamo che con questa canzone il CLR dà appuntamento per la replica di questa trasmissione al 19, però ricordiamo gli appuntamenti al quale speriamo di incontrare. L'appuntamento fondamentale è sabato 16 a Porta San Paolo, Esatto. Tutte intorno al carro e nello spezzone separatista. Tutte quante abbiano voglia di esserci come donne, come lesbiche, come femministe, come persone, individue che hanno voglia di dire: io mi autodetermino, io scelgo il mio destino. Esatto, una volta si diceva: metterò un garofano rosso all'occhiello, adesso ci mettiamo in piedi sul camion, tanto per farci vedere un po' di e più. E portate i vostri contributi, le vostre parole d'ordine, quelle che vi piacciono di più. Esatto. Basta che non sia "sono fascista", il resto va tutto bene. È tutto accettato. Va bene, allora a martedì prossimo il CLR vi saluta, un abbraccio e ci vediamo sicuramente ciao. Sabato. Ciao. Get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. Yeah. Avete ascoltato? È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del coordinamento lesbiche romane sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. I really do believe that something's got a hold on me, yeah.